Buongiorno da Alessio Maurizi, e così alla fine tutto è andato per il verso giusto. Battuta la Francia ed evitato il temuto biscotto tra Olanda e Romania, l'Italia è ai quarti di finale degli europei di calcio. Azzurri che si presentano in campo con la difesa confermata, a centrocampo il rientro di Gattuso a fianco di De Rossi e Pirlo, per Rotta dietro a Cassano e Toni. Italia che parte da subito più decisa della Francia col possesso palla e qualche azione pericolosa. Poi saranno alcuni episodi a condizionare il risultato finale di 2-0. Il commento del commissario tecnico Donadoni. Sì, una buona prestazione. Forse stavamo giocando meglio quando eravamo in 11, poi dopo è subentrata forse un po' di timore, un po' di paura, un po' di nervosismo e abbiamo perso in certi frangenti un po' il filo del discorso, però c'è stata una grande risposta da parte di tutti questi ragazzi e mi piace ricordare soprattutto quelli che non hanno giocato, soprattutto loro. Questo è il nostro spirito, questo è l'entusiasmo che ci anima e che ci fa andare avanti e che ci fa sperare anche nel momento in cui con un punto solo tutto era complicato e difficile. L'episodio chiave arriva al 24esimo del primo tempo, fallo di Abidal su Toni lanciato in area da Pirlo, rigore per l'Italia ed espulsione del giocatore francese, penalty realizzato da Pirlo. Autore dell'azione con cui si è procurato il rigore, Luca Toni ha però avuto molte altre occasioni che non è riuscito a sfruttare. Sentiamo Toni. È andata sempre fuori di pochi centimetri, anche l'ultimo tiro addirittura è andata sul palo, però sono contento perché comunque sia nell'azione principale. Penso di aver fatto una grande cosa. Non è l'importante che siamo passati, non era importante che segnassi io. Quest'Italia ha dimostrato che c'è e adesso che siamo ai quarti ce la giocheremo fino in fondo. Al 17esimo della ripresa, ancora un colpo di fortuna per la nazionale su calcio di punizione da quasi 30 metri. De Rossi tira direttamente in porta e Henry in barriera devia il pallone che spiazza il portiere francese Coupé. Palla in rete per il 2-0. La soddisfazione di Daniele De Rossi. Io sono contento al di là del gol che è stato abbastanza fortunoso, della prestazione in parte mia ma soprattutto della squadra e della reazione soprattutto in un momento difficile, una qualificazione quasi impossibile a detta di tutti e siamo molto molto contenti. Ma la serata di ieri è andata bene anche e forse soprattutto sull'altro campo, quello di Berna, dove l'Olanda, già qualificata, si presenta in campo con 9 titolari in panchina. Van Basten decide di dare spazio alle riserve, ma è la Romania a mancare. Costretti a creare gioco per vincere a tutti i costi, i romeni mostrano i loro limiti. E così l'Olanda è più pericolosa, al 54esimo va in vantaggio con Huntelaar. A questo punto l'impresa italiana è quasi compiuta. A 3 minuti dalla fine Van Persie mette il sigillo olandese. 2-0, terza vittoria consecutiva degli Orange e l'Italia naturalmente ringrazia. Donadoni adesso non può che confermare quello che aveva già detto prima della partita. Non avevo dubbi, conosco Marco Van Basten, conosco la sua personalità, conosco il suo spessore, poi dopo le partite posso anche finire diversamente, ma quando mi si chiedeva se lo chiamavo mi sembrava veramente una cosa assurda, inutile e anche poco corretta nei suoi confronti. La giornata di oggi agli europei, in cartellone Grecia-Spagna e Russia-Svezia, lo scontro che vale il secondo posto nel girone del gruppo D. Interviste e collegamenti su Radio 24, a tempo di sport speciale europeo alle 14 e poi alle 22:30, l'ultimo appuntamento. Da Alessio Maurizio un saluto e l'auguro di una buona giornata.